Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Quando sono le 13:33:51, siete all'ascolto di Radio 24 e questa è Italia in controluce. Sono due edizioni quotidiane che vi raccontano ogni giorno l'Italia. Quella di Metroweb è una privatizzazione da cui hanno guadagnato soltanto i privati. Il racconto di Ceo Condina dell'agenzia di stampa Radiocor. È quasi impossibile camminare per Milano senza imbattersi in un tombino con la scritta Metroweb. A chi ha buona memoria ricorderà i marciapiedi ridotti a trincee di una decina di anni fa, quando la società installò nel sottosuolo meneghino migliaia di chilometri di fibra ottica, gli stessi che oggi permettono una connessione veloce a internet. Metroweb, tuttavia, è anche sinonimo di una privatizzazione che ha visto il comune di Milano svendere un gioiellino in cui erano stati investiti, attingendo alle casse della municipalizzata AM Milano, qualcosa come 200 milioni di euro. Nel 2006, proprio all'inizio del suo mandato, il sindaco Letizia Moratti diede il via libera alla cessione di Metroweb al fondo di investimento britannico Stirling Square, definendo la banda larga una rete senza know-how innovativo e di valore strategico molto limitato. Il prezzo? 32 milioni di euro, il classico piatto di lenticchie, se si pensa che 5 anni dopo, ironia della sorte proprio alla fine del mandato della Moratti, Stirling si appresta a rivendere la società per oltre 300 milioni di euro. Ma chi si metterà in tasca gli enormi guadagni derivanti dalla cessione di Metroweb? Questo è il punto più spinoso della vicenda. Il fondo Stirling ha infatti comprato l'azienda utilizzando un veicolo lussemburghese, tra i cui soci figurano 3 misteriose finanziarie offshore, con sede a Bermuda, Isole Vergini e Guernsey. 3 società, spiegano gli addetti ai lavori, che godono di fiscalità agevolata, ma soprattutto di cui è impossibile, se non per l'autorità giudiziaria, conoscere i reali azionisti, cioè coloro che hanno davvero guadagnato dalla svendita di Metroweb. Allora dunque, alle 13:36:07 facciamo veramente il punto, perché naturalmente stiamo parlando di una vicenda complicata ma molto importante, molto interessante. Come ci raccontava Ceo Condina, dunque, la società che ha cablato Milano con la banda larga nel 2006 viene venduta per 32 milioni a Stirling Square, un fondo di investimento britannico che ha eseguito l'operazione attraverso SSCP Fibre, una società lussemburghese il cui 7,5% del capitale è oggi nelle mani di queste 3 società offshore. Oggi lo stesso fondo sta per vendere Metroweb per oltre 300 milioni, realizzando dunque un profitto monster. Ancora Ceo Condina. La storia di Metroweb è uno spaccato del capitalismo municipale italiano, con i debiti scaricati sui bilanci pubblici e i profitti che finiscono a pochi privati. La società, interamente controllata da AM Milano, nasce nel 1999 in piena bolla di internet. A Palazzo Marino, alla corte del sindaco Gabriele Albertini e del direttore generale Stefano Parisi, imperversa una coppia di manager che realizzerà profitti mostruosi grazie alla New Economy, Francesco Micheli e Silvio Scaglia, fondatori di Ibiscom. Grazie ad essa i due stringono un accordo con il comune di Milano, in base al quale rilevano il 60% di Fastweb e, per 17 miliardi delle vecchie lire, circa 8,7 milioni di euro, il 33% di Metroweb. Fastweb e Metroweb sono due facce della stessa medaglia. La prima vende contenuti sulla rete, la seconda installa la rete stessa nel sottosuolo di Milano. 4 anni dopo, è il 2003, il primo colpo di scena. Il comune decide di comprarsi tutta Metroweb, che nel frattempo ha cablato Milano con la banda larga, indebitandosi per 200 milioni di euro. A Scaglia e Micheli non sembra vero. Non solo si liberano dei debiti, ma riescono a vendere il 33% di Metroweb, acquistato per 8,7 milioni, a qualcosa come 37 milioni di euro. Un guadagno pazzesco che investono immediatamente per comprarsi tutta Fastweb, alla cui guida piazzano Parisi, ex city manager di Palazzo Marino. Nel 2006 il secondo colpo di scena. Metroweb si è consolidata, macina utili e abbatte il debito di anno in anno, ma Palazzo Marino decide che la banda larga non è più strategica. AM Milano oggi A2A avvia la vendita. L'opposizione protesta, ma Letizia Moratti, nel frattempo succeduta ad Albertini, procede senza indugi. Qualche mese e il 100% di Metroweb passa al fondo britannico Stirling Square per 32 milioni, mentre tre anni prima, per il solo 33%, AM Milano aveva sborsato una cifra superiore, 37 milioni. Amministratore delegato e direttore generale della società diventano Alberto Trondoli e Moreno Grassi, entrambi con un passato in Fastweb. Come non bastasse, qualche mese dopo, Metroweb firma un maxi accordo con Telecom Italia, a cui affitta la fibra ottica per 50 milioni. L'ultimo colpo di scena sta per compiersi. Stirling si appresta a rivendere Metroweb per oltre 300 milioni. All'asta parteciperanno, tra gli altri, Vodafone, Wind e il Fondo Italiano di Infrastrutture F2I insieme con Intesa San Paolo. Ma i profitti saranno quasi tutti del veicolo lussemburghese con cui Stirling ha comprato Metroweb. Ma non finisce qui. La lussemburghese, a sua volta, vede tra i propri soci tre finanziari offshore, con sede in altrettanti paradisi fiscali, Bermuda, Isole Vergini e Guernsey. Un groviglio di misteriose società che finora nessuno è mai riuscito a sbrogliare e che forse nasconde il vero segreto della storia di Metroweb. Aldo Scasselli è un uomo di spicco dell'establishment finanziario milanese, presidente di Metroweb fino dalla sua fondazione della società. Si è opposto con tutte le sue forze ad una vendita che definì subito una svendita. Ora Aldo Scasselli è vicepresidente del Medio Credito Italiano e oggi, 5 anni dopo, alla luce di eventi e numeri, Scasselli rivendica le proprie ragioni. Lei, che guidava Metroweb di fatto dalla fondazione della società, disse subito che si trattava di una svendita. Oggi i numeri le danno ragione. In effetti non ci sono discussioni su questo fatto. Se poi ricordo che le cifre di valutazione, credo per il 100% di Metroweb, furono indicate in realtà in 32 milioni più il debito, e quei 32 milioni in realtà forse non sono neanche mai stati tirati fuori, per il semplice motivo che fu impostata un'operazione finanziaria per cui il venditore finanziava il compratore, alla luce dei numeri che si sentono, anzi che si vedono oggi, effettivamente è stato un regalo. Ora, il regalo ha tre caratteristiche. Primo, chi regala? Certamente ha regalato la cittadinanza milanese. Chi ha voluto il regalo sta nelle persone che hanno detto, senza entrare poi nei dettagli, che si trattava di un patrimonio obsoleto di nessuna validità strategica. Quello che manca all'appuntamento è il nome delle persone fisiche che hanno beneficiato di questo regalo. La cosa più, diciamo così, sconcertante è che si sia scelto di vendere a delle aziende che risiedono in paradisi fiscali, per cui a 5 anni di distanza, francamente, io ancora adesso non ho capito chi è il beneficiario di centinaia di milioni di euro di regalo. Qualche giorno fa, in un'intervista a Sole 24 Ore, il sindaco Letizia Moratti ha parzialmente ammesso l'errore, dichiarando che negli affari nessuno ha la sfera di cristallo. Qui tuttavia stiamo parlando di una società venduta, come ricordava lei giustamente, per 32 milioni di euro e che oggi ne vale anche più di 300. Ma neanch'io avevo la sfera di cristallo, ma sta di fatto che, conoscendo i numeri della Metroweb, che erano fra l'altro noti perché è un'azienda pubblica, era controllata al 100% dalla A2A attuale, a ex AM di allora, qui non è questione di sfera di cristallo. Qui è questione di voler fare a tutti i costi un regalo, perché qualcuno, ad esempio il sottoscritto, ha cantato in tutti i modi che si trattava comunque di una svendita. E dopo aver ascoltato questa storia che ci ha raccontato Ceo Condina, ci chiediamo se non è il caso che la magistratura intervenga per scoprire le ombre che si muovono dietro all'affare Metroweb e se non è il caso che anche la Consob intervenga, visto che Metroweb ha come azionista al 23% A2A, cioè una società quotata in borsa. Italia in Controluce, la seconda edizione. Cercateci su Facebook, Twitter, comunicate con noi via mail controluce@radio24.it. Domani alle 6.30 su Radio 24, vi ricordo, con Raffaella Calandra ricorderemo tutti quei magistrati uccisi dalle Brigate Rosse. Questo anche un po' rispondendo a quello che è accaduto in questi giorni, in cui sono apparse per Milano dei manifesti rossi che sostenevano che c'erano brigatisti all'interno delle procure, e invece a Milano sono stati uccisi, solo nella nostra città, lo ricordo, Emilio Alessandrini e Guido Galli, solo per ricordarne alcuni.